Nerdcast presenta Onigiri. Rubrica di manga, anime, Giappone e salmoni. Benvenuti a tutti carissimi ascoltatori, questa è la seconda puntata di Onigiri, la rubrica staccata dal podcast principale che è appunto Nerdcast. Io sono Murtag, benvenuti di nuovo. Prima di iniziare diamo subito i contatti un po' del podcast e anche in generale della rubrica. Nerdcast@gmail.com è la nostra mail, nerdpodcast.blogspot.com invece il nostro blog di riferimento. Siamo su Facebook, se volete ci trovate come Nerdcast, e anche su iTunes. Siamo anche su Twitter, il Twitter del podcast è www.twitter.com/nerdfats. Prima di cominciare fatemi ricordare che sono cominciate anche le altre due rubriche, sia di Garriden che di Rampage. Quella di Rampage si chiama Meanwhile in the Cubic World, è una rubrica video che trovate sul nostro canale YouTube, dove c'è lui che gioca a Minecraft e dice cavolate. E poi c'è Sturmovik, altra rubrica di Garriden, che parla di cose in generale, un po' di quello che gli va. Detto questo, possiamo tranquillamente iniziare con le nostre notizie in breve sul Giappone. Iniziamo con le notizie, in breve sì, sul Giappone, ma in generale anche su altro proveniente dal Giappone. Partiamo con una notizia, diciamo, abbastanza felice, ma neanche troppo. In 51 scuole elementari di Fukushima sono stati riaperti i giochi all'aperto. È una cosa che fanno praticamente tutte le scuole del Giappone. Chiaramente Fukushima si era fermata per i motivi che sappiamo, radiazioni eccetera. Da metà maggio diciamo, le attività sportive all'aperto per gli studenti sono state riprese, il che è sicuramente positivo, però vedere questi studenti con le mascherine alla bocca è abbastanza macabro ancora. Continuando praticamente sullo stesso filone, parliamo sempre di radioattività. In Giappone è stato lanciato uno smartphone con un chip per rilevare la radioattività, prodotto da Sharp. Lo smartphone è chiaramente acquistabile già dagli inizi di giugno, è utilissimo chiaramente per chi vive un po' in queste zone a rischio. Sinceramente non vedo perché non debba essere anche reso gratuito per tutti. È una cosa così utile, non vedo perché... ok, metterlo in vendita va bene, però trovare un modo per renderlo disponibile a tutti sarebbe più che ottimo, secondo me. Parliamo invece di una cosa più parecchio più stupida, giusto per ricordarci che in Giappone ci sono tantissimi pervertiti di qualsiasi età. Un ragazzo di 23 anni, studente dell'università di Waseda, è stato arrestato perché si è introdotto nella casa di una ragazza e le ha rubato la biancheria intima, praticamente le mutandine. E questa è come la notizia, non so se l'avete, se avete ascoltato il podcast l'Onigiri precedente, dove abbiamo parlato del fatto che volevano fare una petizione, c'è stato questo ragazzo giapponese per fare petizioni per permettere insomma il matrimonio tra personaggi di anime e esseri umani, cosa totalmente folle chiaramente. Questo giusto per ricordarci che sì, il Giappone è la patria della tecnologia, ma anche la patria delle stronzate come questa. Notizia che invece fa venire parecchio i conati, riguarda questo transessuale giapponese, fin qui insomma tutto normalissimo, che cucina e serve però i propri genitali. Li ha cucinati e li ha serviti per 100.000 yen. Il tizio si chiama Mao Sugiyama. Si dichiara sessuato, però insomma vestito da transessuale, insomma fin qua tutto benissimo, però cucinare i propri genitali e venderli è una cosa praticamente da cannibali, cioè a un certo punto poi il rispetto non serve più, è una cosa semplicemente inutile e stupida, ma al massimo completamente. Parliamo invece di qualcosa che ha a che fare con manga e anime finalmente. Verranno prodotti nuovi francobolli per tutte le prefetture del Giappone dedicati a One Piece. Ogni francobollo però avrà avrà sempre lo stesso personaggio, che in questo caso è Chopper, appunto di One Piece, dove in ogni francobollo fa cose diverse. Sono diciamo carini, molto carini. Si possono acquistare al sito delle poste giapponesi per poco più di 5 euro, 530 yen comunque. Carini, niente di più, è una notizia comunque simpatica. Creato sempre in Giappone, il joypad più grande del mondo, che appartiene però ad una console che ha ormai una ventina d'anni, cioè il NES. Appunto c'è questo video di questo ragazzo che gioca col NES con questo joypad gigantesco. Praticamente è anche, vabbè, chiaramente è scomodissimo perché non si può giocare comodamente con un joypad così enorme, però è molto bello. Sembrerebbe più una scrivania in realtà. Usarla come scrivania secondo me sarebbe anche simpatico, molto molto simpatico. Il video è sulle note dell'episodio. Continuiamo praticamente autocitandoci. La nazionale giapponese di calcio, in vista delle Olimpiadi di quest'estate, si sta allenando con un pallone a forma di onigiri. Colgo l'occasione per ricordare che cos'è un onigiri. Praticamente l'onigiri è questa polpetta di riso bianca a forma triangolare. Si vede spessissimo negli anime, è molto famosa anche negli anime, e ha questa caratteristica diciamo di avere la forma triangolare e questa alga nera diciamo alla base. Tra l'altro insomma è anche molto molto buona, perciò se non avete mai provato un onigiri provatelo, ve lo consiglio caldamente. Parliamo sempre di manga. Ci sarà il remake del film di GTO, notizia ottima. a interpretare appunto Onizuka sarà Akira degli Exile. Dunque, chi sono gli Exile? Gli Exile sono una band di 14 membri, tutti maschi, una band diciamo pop dance molto famosa in Giappone. Hanno venduto più di 20 milioni di copie solo in Giappone. Akira è diciamo uno dei 4, dei 14 degli Exile e farà appunto Gritteacher Onizuka nel remake del film di GTO. Ma a guardarlo sembra, sì, sembra simpatico, però non so, io Onizuka me lo sono sempre immaginato un po' più cazzone. Questo sembra troppo bravo ragazzo, non lo so. Comunque la notizia è ottima, soprattutto per i fan di GTO. Chiudiamo con l'ultima notizia e poi canzone Podsafe. Persona 4, sempre parlando dei film, verrà reso appunto anch'esso fi un film, cioè di un film di 90 minuti di animazione, chiaramente. Chi è? Che cos'è Persona 4? Dunque, Persona 4 è famoso per essere stato uno degli ultimissimi giochi solo PS2, usciti nel momento in cui già la next gen impazzava. È stato un peccato perché Persona 4, secondo me, è stato uno dei giochi più belli. È uno dei giochi più belli per PS2. È una sorta di gioco che si basa più sulla psicologia, anche sull'umorismo, sul macabro. È molto bello, secondo me è anche uno dei pochissimi giochi davvero degni di nota usciti dal Giappone negli ultimi 5-6 anni. Quindi se avete una PS3, non avete una PS2, anzi, non avete mai giocato a Persona 4, ve lo consiglio caldamente. Vi consiglio anche di guardare il film di 90 minuti, appunto, in grafica anime, chiaramente. Noi abbiamo finito le notizie in breve sul Giappone. Dopo la canzone Podsafe parliamo un po' di Jump e delle tre nuove serie che sono uscite appunto per Jump. La band dell'episodio si chiama Icon Girl Pistols, sono chiaramente giapponesi, sono Podsafe. Ma sono anche su iTunes se volete. Sono, diciamo, bravini, niente di più eccezionale. La canzone si chiama An Illegal Ticket. Buon ascolto. ただ erano gli Icon Girl Pistols, appunto giapponesi. Noi continuiamo con la classifica di Shonen Jump e qualche anime da consigliare. Andiamo avanti. Partiamo dall'anime da consigliere. In realtà ho avuto poco tempo in questo ultimo mese per trovare qualcosa di nuovo veramente simpatico da consigliare. Però vi consiglio questo anime, questo short anime di circa 6 minuti che si chiama Salmon-chan. Per questo appunto la rubrica era anche di salmoni, come dicevo all'inizio. Perché ve lo consiglio? Perché allora, partiamo dall'inizio. È un corto, appunto un anime abbastanza corto, diretto da tale Yumiko Toyoshima, che è stato presentato come tesi di laurea dallo stesso. In che cosa non lo so, sinceramente. Però è molto interessante, cioè è interessante vederlo, è carino, è simpatico. Sono diciamo sei minuti, in sei minuti è racchiuso tutto ciò che può esserci in un anime. È molto carino perché appunto è concentrato. È interessante soprattutto perché prima cosa di tutto non si trova con i sottotitoli, e i sottotitoli neanche servono perché i personaggi sono quasi muti, si parla più con le immagini. E diciamo, vorrei descrivervi la storia, ma in realtà non l'ho capita benissimo. Però ve lo consiglio perché in generale l'atmosfera dell'anime, dello short anime, è molto, molto simpatica, divertente, non ha senso, è un nonsense continuo. Forse è per questo che mi è piaciuto parecchio. Però insomma, se riuscite a trovarlo, guardatelo, sono solo 6 minuti, si chiama Salmon-chan. E l'altra volta abbiamo parlato della classifica dei manga più venduti nel 2011 in Giappone. Adesso continuiamo più o meno, parliamo della classifica dei manga più venduti nel primo semestre del 2012, quindi abbiamo già una buona prospettiva. Buona prospettiva in realtà sì, ma anche molto facile da intuire. I due manga più venduti finora in questi primi sei mesi del 2012 in Giappone appartengono chiaramente a One Piece. Il primo più venduto è One Piece volume 65, il secondo è One Piece volume 66. Adesso, senza ricapitolare tutta la classifica, diciamo che anche Naruto è uno dei più venduti. Hunter x Hunter, che ricordiamolo, si è fermato per parecchio tempo a causa di problemi di salute del mangaka, però esce dalla sesta posizione dei manga più venduti in questo primo semestre. Hunter x Hunter numero 30, chiaramente. Il più venduto degli shoujo invece è Kimi no Todoke, che io personalmente non conosco molto, non essendo un amante degli shoujo. Però, diciamo, è molto amato in Giappone. Oltre questo, diciamo, anche Bleach è abbastanza venduto. 12esima e 13esima posizione per lui. Comunque calate sicuramente molto le vendite. E poi ne approfitto per anche consigliarvi un manga che, a dire il vero, non so se sia edito anche in Italia, mi pare di no, che si chiama Terme Rome. Appunto in latino, in realtà appunto è un manga. Parla di questo ingegnere dei tempi romani che viene praticamente teletrasportato nel Giappone di oggi, in cui impara nuove scoperte appunto tecnologiche, e poi ritorna di nuovo a Roma, ai tempi romani, si parla dell'impero romano, e diventa famoso per alcune scoperte tecnologiche. È molto interessante in realtà come idea. È anche carina, a dire la verità. Simpatico, me ne parlo perché Terme Rome, volume 4, è il decimo manga più venduto nel primo semestre del 2012. Fatto questo, andiamo a vedere le ultime classifiche di Weekly Shonen Jump, perché c'è da parlare di tre nuove serie iniziate. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Dunque, ci eravamo fermati col doppio numero di Weekly Shonen Jump, eravamo arrivati al 21 e 22, che era il numero punto doppio. Allora, vediamo che cosa è successo. Nel numero 23, nuova serie, già anticipata appunto, Koisome Momiji, di cui parliamo fra poco. Numero 24, sempre di Jump, di nuovo nuova serie, questa si chiama PSI Kusuo Saiki. Vediamo anche questa. E poi nuova serie di, appunto, terza serie nuova di fila, al numero 25 di Jump, Sensei no Balge. Dunque, parliamo brevemente di questi nuove, di queste nuove tre serie, e poi vediamo il numero 27. Allora, partiamo da PSI Kusuo Saiki. Parto da questo perché è l'unico delle nuove tre serie di cui non so molto, sinceramente. Perché si trovano soltanto le scan non sottotitolate, si può intuire solo qualcosa. Sembra che sia un manga abbastanza serioso, ma non troppo. Cioè, molto umoristico. Anche questo, però, devo dire la verità, è ambientato in una scuola. Adesso gli shonen, moltissimi shonen, sono ambientati all'interno delle scuole, o comunque hanno a che fare con le scuole giapponesi. Riguardando anche questa nuova serie, un po' ho sentito il peso sempre della solita ambientazione. Secondo me i manga, anche quelli nuovi, dovrebbero cercare di cambiare un po' ambientazione, perché guardando anche le RO, cioè le scans non tradotte in giapponese, sembra qualcosa di già visto. Poi chiaramente non basta per valutare un manga, però diciamo sembra in effetti qualcosa di già visto. Comunque guardiamo un po' dove va a finire. E questa era la prima nuova serie, PSI Kusuo Saiki. Seconda nuova serie, a partire dal numero 23, è Koisome Momiji. Allora, Koisome Momiji, questa l'ho trovata sottotitolata, cioè tradotta in inglese. Allora, mi sentite un po' così con questo tono, perché Koisome Momiji è uno shoujo. Shonen Jump, come dice il nome, è una rivista prettamente shonen. Adesso non voglio dire che su Shonen Jump non ci possano essere anche gli shoujo, però non devono essere shoujo veri e propri, cioè quelli un po' troppo sdolcinati, quelli che poi a me personalmente non piacciono neanche troppo. E invece Koisome Momiji è proprio uno shoujo sdolcinatissimo, insensatissimo. La storia in breve è che c'è questo ragazzo, il solito ragazzo sfigato giapponese, che si innamora di questa star, questa ragazza ovviamente bellissima. Si dice: oh no, non ce la farò mai, non riuscirò mai a uscire con una come questa. Poi guarda caso ci riesce, si innamorano così, e nasce la storia d'amore del ragazzo sfigato con la bella attrice. Questo è Koisome Momiji, cioè la nuova serie di Shonen Jump a partire dal numero 23. Ok, magari servono più capitoli per capire dove vuole andare a parlare veramente una serie, su questo posso essere d'accordo, però sinceramente, ragazzi, è stato di una pesantezza leggerlo che è qualcosa di impressionante. Io sinceramente non l'avrei votato, però nei Shonen Jump, nei numeri successivi al 23, comunque Koisome Momiji era, diciamo, a metà della classifica. La cosa mi sembra un pochino strana, sinceramente. Si vede che i ragazzi shonen giapponesi sono stati attirati, evidentemente. Ultima nuova serie su Jump, sul numero 25, è Sensei no Balge, nel quale appunto avevo parlato nello scorso nigiri. Allora, ho letto anche Sensei no Balga, i primi tre capitoli. Allora, tra i tre tra le tre nuove serie, devo dire che Sensei no Balga è quella che mi è piaciuta di più. È uno shonen vero e proprio, ha una storia molto simile, diciamo, al primo Dragon Ball o a Naruto, comunque, questo comunque traspare nei primi capitoli. Sembrerebbe un manga di combattimento, sono abbastanza sicuro che sia un manga di combattimento. La storia riguarda questo ragazzo che per varie ragioni, che adesso vi è buono, diventa principe della città in cui viveva, e si riscopre con dei poteri, il potere di saper evocare una sorta di lancia con cui diciamo sconfiggere i nemici. In realtà, cioè, la presentazione non è stata neanche fin troppo convincente, però anche Naruto era iniziato così, ricordo. Era iniziato un po', non cominciava moltissimo, dopodiché è scoppiato e è diventato il capolavoro che conosciamo. Quindi io lo terrò sicuramente sotto osservazione. Sensei no Balga, ve lo consiglio, anche perché tra le tre serie nuove, ripeto, è quella che un po' mi ha convinto di più. Mi spiace per PSI Kusuo Saiki, ma purtroppo per ora non ho avuto accesso a scans, perlomeno in inglese. Continuiamo, appunto, continuiamo con l'ultimo jump uscito, nel momento in cui sto registrando, è quello di mercoledì 30 maggio, jump numero 27. Allora, in prima posizione troviamo Bleach, però attenzione, è in prima posizione perché ha il lead CP, ovvero è diciamo al centro pagina di Jump. Quasi ogni Jump c'è un centro pagina dedicato a un manga diverso di Jump, e credo sinceramente che Bleach sia in prima posizione per questo, perché partendo dal numero 23, cioè il numero dopo l'ultimo che abbiamo esaminato, ovvero il 21 e il 22, Bleach è sempre stato nelle parti basse della classifica, quart'ultimo, terz'ultimo, al massimo al centro classifica, e adesso in prima posizione, credo che in qualche modo Shonen Jump stia cercando di dargli un push per riportarlo in alto. C'è da dire che purtroppo Bleach sta perdendo parecchi colpi, come abbiamo già detto nell'onigiri precedente. Niente, era una mia considerazione. Vediamo un po' dove va a finire quest'ultima serie, che leggendo le scans, senza fare spoiler, devo dire comunque finora non è stata niente di particolarmente eccitante, diciamo. Dopo Bleach abbiamo seconda posizione Toriko, terzo One Piece, quarto Gintama, quinto Naruto. Ormai non c'è bisogno di dirlo, cioè Toriko, One Piece, Gintama e Naruto sono i quattro che stanno sempre al top della classifica. Poi abbiamo appunto Sensei no Balga in settima posizione. Sotto di lui, pazzesco ragazzi, Koisome Momiji, cioè il manga di prima di cui ho parlato prima. Comunque c'è da dire che le nuove serie hanno le prime posizioni, mantengono un po' le prime posizioni, o comunque stanno nella prima parte della classifica per un po', chiaramente essendo nuove serie attirano un po' di più. E, detto questo, diciamo che la classifica in generale di Shonen Jump non riserva, diciamo, altre cose interessanti di cui discutere. Perciò, per non dilungarci troppo, io direi che Onigiri può finire qui. Noi ci rivediamo nel prossimo Onigiri. Prima di lasciarvi, vi lascio appunto i contatti di nuovo: nerdcast@gmail.com è la nostra mail, nerdpodcast.blogspot.com è il nostro blog. Se volete, siamo anche su Facebook, siamo anche su iTunes. Su Twitter ci trovate come Nerdfats. E basta, va bene così. Benissimo, da Murtag, tanti saluti. L'ultima canzone Podsafe, sempre Yakon Girl Pistols, hanno un nome impronunciabile, sempre appunto i giapponesi. E noi ci troviamo appunto a Onigiri numero 3, o se volete sul podcast principale Nerdcast, che dovrebbe uscire verso fine mese. Detto questo, ciao a tutti. それが親友ってもんじゃないか。